12:20 minuti primi di martedì 26 ottobre 2010, con i 5 canonici minuti di ritardo va ad iniziare Maldestra, l'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. Sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere, la storia. Per portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio, come in silenzio, come... Questa è la memoria dei Senza Sicura, che come di consueto funge da sigla a questa puntata, una puntata in cui andremo ancora a parlare di America, non perché stiamo diventando una trasmissione di americanistica, come qualcuno ci ha fatto notare di recente, ma perché ci troviamo proprio alla vigilia delle elezioni di medio termine. In qualche modo andremo un po' a tirare le somme di tutto quanto si è mosso, a partire dalla vittoria di Obama fino ad ora nella destra politica americana, che sappiamo poi come essa stessa influenzi il nostro paese. Ma non parleremo solo di questo, parleremo anche di ciò che ci riguarda un po' più da vicino, ovvero del corteo contro la repressione che si svolgerà in quel di Napoli sabato 6 novembre. Mi strapperanno la vita di dosso, si perderà nel cielo con il mio destino, con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso. Ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio, non è importante, non fa poi così male, che bruciano i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che voi viva e non sia mai cancellato. Come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più, sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere, voi il vento mio. Allora, mentre siamo in attesa di collegarci con Napoli, collegamenti un po' laboriosi questa mattina, vi lasciamo ancora qualche istante di musica. Questi sono gli Eight Six Crew, la canzone Marseille, un po' anche sarete anche un po' abituati per chi ascolta comunemente questa trasmissione, visto che la mandiamo anche abbastanza spesso. Ritorniamo in studio, introdotti da una canzone quanto mai azzeccata, Police on My Back dei Clash, per andare a parlare di Napoli. Intanto verifichiamo se funziona il collegamento, dovremmo avere in collegamento appunto una compagna di Napoli. Ci senti? Sì, sì, vi sento. Ciao. Perfetto, ciao a te. Allora, noi come abbiamo introdotto anche prima del appunto che tu ci raggiungessi, parleremo del corteo di sabato 6 novembre, del corteo contro la repressione, però prima di parlare del corteo vero e proprio, io partirei un po' dalla genesi di tutto questo, ovvero che è stato l'arresto di un compagno di Tonino quest'estate, in un momento che è anche difficile, un momento anche di calo dell'attenzione rispetto esatto. a certi fatti, quindi magari anche alcuni ascoltatori e ascoltatrici non sanno nemmeno di che cosa stiamo parlando. Quindi quello che ti proporrei intanto è di riassumere la vicenda e poi magari dare anche proprio gli aggiornamenti per chi aveva iniziato a seguirla rispetto alla situazione di Tonino. Ok, cerco di essere quanto più breve possibile. Il 26 luglio ci sono Tonino in effetti viene chiamato in questura perché gli dovevano notificare una denuncia e praticamente lì resta fino a quando poi viene tradotto a Poggio Reale, insomma, lungo la stessa giornata. Quindi noi abbiamo la notizia del suo arresto in un clima, come dire, di notizie che si rincorrevano e che non davano, e nessuna di loro, insomma, ci dava la certezza di cosa stesse accadendo. Tonino viene tradotto a Poggio Reale, dove resta fino a fine settembre. Poi viene trasferito a Civitavecchia, dove si trova ora, e ovviamente faccio riferimento al blog che è stato creato per lui, che è toninolibero.org, per potergli scrivere, ci sono gli indirizzi e insomma tutte le notizie dettagliate anche rispetto a tutta la solidarietà che i compagni sia in Italia che insomma all'estero hanno dato lungo questi mesi. Mi chiedevi della genesi. La genesi è stata in effetti gli avvenimenti del corteo del primo maggio. Durante il primo corteo che si è tenuto il primo maggio a Napoli, in effetti abbiamo vissuto lungo il percorso del corteo di una provocazione da parte di alcuni fascisti che si sono presentati ai margini e diciamo si sono resi visibili a tutti gli spezzoni, insomma, che stavano sfilando. Ovviamente la reazione dei compagni è stata, e di tutta la gente, insomma, che si trovava lì, è stata quella di cacciare immediatamente questi personaggi. Ovviamente nel parapiglia la dinamica poi è stata come dire, quasi del tutto sconosciuta, insomma. Quello che sappiamo è che uno di questi personaggi è uscito dal negozio in cui si era andato a rintanare con una ferita da taglio. Ora non entro, insomma, nella dinamica, come dire, giudiziaria, assolutamente, non interessa poi, nemmeno, esatto. Ecco, la questione è che è un dato assolutamente innegabile e lampante, diciamo, il fatto che Tonino sia stato arrestato non tanto per per il reato, insomma, quanto per la sua attività di militante anarchico, antifascista, antiautoritario nell'ambito di tutte le vicende che sono accadute a Napoli. Quindi perché sarà arrestato altro mesi dopo, no? Sì, sì, sì, vabbè, quello ovviamente, insomma, nel senso, lo dicevi anche tu, il fatto che poi questa cosa sia avvenuta alla fine di luglio, cioè quando notoriamente, insomma, sia le dinamiche come dire, di politiche in città, insomma, tendono un po' a più che a scemare, cioè meno attenzione, ecco. Su queste ovviamente la repressione punta a colpire nel momento in cui i compagni, insomma, si trovano anche un po' più isolati, seppur estemporaneamente, per il fatto che ci sono a breve le ferie. Devo dire però che la risposta di Napoli e anche da parte diciamo dei compagni che nel resto d'Italia hanno cominciato sin da subito a dare la solidarietà attraverso le scritte, attraverso i comunicati che si sono fatti, diciamo, a dato una risposta palese a questa becera manovra di muoversi insomma a ridosso di agosto. Abbiamo avuto praticamente un'estate in cui, se pensiamo che il primo presidio si è tenuto il 31 luglio, si è continuato poi a mantenere viva questa vicenda sia dal punto di vista insomma mediatico attraverso internet, il blog, sia in città attraverso, come ti dicevo, le scritte. Abbiamo poi avuto la notizia successivamente di una sua traduzione a Civitavecchia del tutto, come dire, fuori da dinamiche che potessimo insomma conoscere, nel senso che è avvenuto prima ancora che ci potesse essere la chiamata del corteo di un ulteriore presidio. In effetti, diciamo, se pensiamo anche a come si muove la repressione in questo senso nei confronti dei detenuti, ovviamente il fatto che Tonino stesse lì e fosse in una situazione dove tra virgolette potesse abituarsi non andava bene per loro, quindi doveva essere ulteriormente trasferito, insomma, e portato poi tra l'altro in un carcere dalle prerogative completamente diverse insomma rispetto a quello di Poggio Reale, dove condivideva insomma la cella con altri detenuti, il che comunque rende insomma la tua detenzione meno solitaria, insomma. Certo, mi pare evidente pure la volontà punitiva anche di isolarlo dal suo contesto. Senti, questo esatto. Però, come dicevamo, è un po' il punto di partenza, no? Per un corteo nazionale. Perfetto. Che anche leggendo l'appello stesso mi pare di capire che in realtà sia molto più ampio anche nell'appello, no? Esatto, infatti il discorso è che Tonino attualmente vive una condizione che moltissimi altri compagni in Italia stanno vivendo e si trova, diciamo, nella fase come dire, più grave, che è quella della detenzione. Già da tempo a Napoli si diciamo, faceva un tentativo anche a livello nazionale di aprire un ragionamento intorno alla repressione. Repressione intesa non soltanto come appunto attività come dire, volta a reprimere le lotte, ma anche intesa appunto come il controllo sociale, il controllo che si sviluppa dalle telecamere in città ad ogni angolo fino alla tessera del tifoso, la schedatura degli studenti, un contesto insomma generale di controllo insomma quanto più approfondito possibile. Ora il nostro punto di ragionamento è quello di appunto far sviluppare una lotta che non sia come dire esclusivamente contro la repressione, come se rappresenti un fatto a sé stante rispetto a quello che è l'elemento che come dire risulta centrale, cioè le lotte reali. Quindi vorremmo appunto che questo corteo rappresentasse il momento in cui i compagni che si muovono in città, nei territori, nelle università, insomma, vengano a Napoli non soltanto per ribadire insomma la loro contrarietà a un sistema repressivo così asfissiante, ma soprattutto per ribadire che le lotte vanno avanti e che diciamo questi sono dei passaggi che come dire possono urlano all'unitarietà insomma che ci può essere tra i compagni. Quindi in questo senso voglio dire non va inteso come un corteo contro la repressione in senso stretto, ecco, ma piuttosto un corteo delle lotte reali che vengono represse, ecco. Anche perché tra l'altro è proprio di queste ore, poi ne parlavamo anche prima fuori onda, è anche difficile in questo momento reperire notizie rispetto a cosa sta succedendo, però abbiamo visto anche dopo le minacce di Maroni e di Mantovano e quant'altro nei giorni scorsi, anche questa mattina stessa si sono poi messi in modo quei processi di criminalizzazione del dissenso e di chi appunto difende il proprio territorio, anche in quel di Terzigno. Abbiamo visto come leggevamo da alcune agenzie ci sarebbero state anche perquisizioni questa mattina, quindi immagino che poi si andranno anche a intersecare questi percorsi nella giornata del 6 novembre in qualche modo. Esattamente, proprio non hai detto diciamo esempio più chiaro, perché Terzigno attualmente rappresenta la lotta popolare, la lotta reale relativa ad un problema vero, nel senso che invito tutti i compagni a passarci, tutta la gente a passare di là, è indubbio diciamo la sensazione di veleno che si respira, quindi la reazione insomma della gente è stata quanto mai, come dire, proprio genuina e popolare insomma rispetto a questa cosa. Ora il discorso è che l'obiettivo repressivo è ovviamente quello di andare a creare uno scollamento tra chi è individuato come il militante potenziale terrorista, narcoinsurrezionalista, che quindi deve essere eliminato. Appunto tu parlavi delle dichiarazioni di Maroni, vogliono il morto, cioè voglio dire stanno proprio cercando di creare questo scollamento. Quello che invece si nota passando in rotonda è che questa cosa non esiste, non c'è questo scollamento, la gente vuole reagire, la gente vuole opporsi diciamo, alla violenza con la quale un territorio viene militarizzato, viene controllato dalle guardie. Ci sono interi come dire, vie di passaggio che sono controllate dagli sbirri, quindi si tratta veramente di una sensazione così percepibile anche da chi non la vive tutti i giorni, che può comprendere perfettamente cosa voglia dire essere lì e diciamo stare lì di giorno e di notte. Ora, rispetto a questo, proprio anche il nostro appello per il corteo del 6, noi vorremmo che fossero questi tipi di lotte a mostrarsi in piazza e a urlare il loro no alla repressione, perché poi sono queste le lotte, diciamo, nelle quali appunto mi dicevi di queste perquisizioni, le notizie si rincorrono, come ti dicevo non è molto come dire facile sapere subito delle notizie certe, però noi vorremmo appunto che diciamo si comprendesse che questo è il tipo di schema che sta architettando, che architetta lo Stato insomma per reprimere le lotte, per far sì che vadano avanti i progetti beceri come quello della discarica di Cava Sario, di Cava Vitiello, diciamo totalmente a discapito della gente che vive lì. Assolutamente. Senti, io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere oppure se ci diamo appuntamento direttamente probabilmente il 6 in piazza. No, io immagino che sì, ci vediamo lì. Ovviamente l'invito è insomma quello a far partecipare quanta più gente possibile. Penso che veramente siano alcuni degli elementi che abbiamo detto oggi siano talmente lampanti che è difficile restare a casa insomma per il 6 novembre. Sì, infatti penso che da questi microfoni cercheremo anche appunto di dare a voce a quanto si sta muovendo anche dalla città di Roma in vista di quell'appuntamento. Esatto. Ti ringrazio, allora al 6. Ciao. Ok, ciao. E noi infatti vi invitiamo a rimanere all'ascolto di questa radio, intanto probabilmente anche al GR che seguirà questa trasmissione, perché cercheremo di dare conto in maniera un po' più precisa di che cosa è successo questa mattina. Si rincorrono voci di perquisizioni, di veri e propri rastrellamenti, cercheremo di capire che cosa è successo nel corso appunto di questa mattinata e di rimanere ovviamente all'ascolto di Rotonda Rossa anche nei prossimi giorni, visto che sicuramente andremo a dare notizia degli eventuali anche appuntamenti romani in vista del corteo del 6 novembre, anche eventualmente per partire tutti insieme chi vorrà recarsi appunto in quel di Napoli. Yeah. Allora, sulle note di questa cover, il The Partisan di Leonard Cohen reinterpretato dai Red Union, ritorniamo in studio, ritorniamo, voltiamo pagina, torniamo ancora una volta a parlare d'America con il nostro redattore telefonico, sempre ammesso che esso ci senta. Ci sei? Io vi sento bene e forte, buongiorno. Anche noi, è chiaro. Buongiorno a te. Allora, come dicevamo in apertura, ormai le elezioni di medio termine americane sono alle porte ed è il momento anche un po' di tirare le somme di tutto quello che in qualche modo si è andato riorganizzando a destra, nella destra americana, dopo la debacle 2 anni fa che vide in qualche modo la sconfitta dei conservatori moderati, moderati poi magari tra virgolette, però quelli incarnati insomma dalla candidatura di McCain, e che ha dato vita poi a tutta una serie di spinte radicali che in qualche modo ci portano a questa tornata elettorale della settimana prossima, che magari ti lascio descrivere. Sì, partiamo diciamo da una fotografia di che cosa è questa elezione. Sostanzialmente negli Stati Uniti ci sono due grandi momenti elettorali, vale a dire ogni 4 anni le elezioni presidenziali e a metà del mandato del presidente eletto queste elezioni dette di mid-term, cioè appunto di mezzo termine, che sono quelle che si svolgeranno il 2 novembre, che sostanzialmente servono per rinnovare i rappresentanti, l'intero numero dei rappresentanti della Camera e oltre un terzo dei rappresentanti del Senato, elezioni che rappresentano, quindi mettono in gioco milioni di elettori, anche perché nella stessa tornata per risparmiare vengono compiute anche le elezioni di una 30ina di stati per il posto di governatore. Quindi diciamo che siamo di fronte alle elezioni sostanzialmente più importanti della politica americana dopo le elezioni presidenziali che si svolgeranno tra 2 anni e che di fatto dall'esito di queste elezioni di midterm si cominciano a delineare anche le strategie politiche per le presidenziali, cioè si comincia a capire, a testare il successo, la popolarità di un presidente in carica, in questo caso Obama, e la possibilità per i suoi rivali di costruire il profilo, di identificare il profilo di un suo possibile sfidante. Allora, che cosa è accaduto a destra? Come dicevi giustamente tu, è accaduto che 2 anni fa, per sfidare Obama, il Partito Repubblicano, reduce dalla vicenda di Bush, quindi di una radicalizzazione estrema, di un legame molto forte con gli ambienti della destra evangelica, eccetera, e anche del clima, insomma, post 11 settembre, della guerra globale al terrorismo, eccetera, eccetera, si era affidato a un politico più moderato come il senatore dell'Arizona John McCain, che è stato alcuni anni fa anche il fautore di una proposta di legge sull'immigrazione bipartisan fatta all'epoca con Robert Kennedy. Nel corso della campagna elettorale i repubblicani si resero conto che però, diciamo, senza il voto religioso, senza il voto diciamo della base più radicale di una parte del mondo dei bianchi americani, non avrebbero potuto sfidare davvero Obama, e si rivolsero a Sarah Palin, all'epoca reduce dal suo posto di governatrice dell'Alaska, che invece incarnava con lo spirito della frontiera, con lo spirito antiabortista, con il rifiuto diciamo dei poteri e del ruolo dello Stato federale, questa America più radicale. A 2 anni di distanza McCain ha dovuto difendere il suo posto in Arizona sposando, assolutamente paradosso per lui, una posizione fortemente critica e dura nei confronti dell'immigrazione messicana in quello stato frontaliero, e Sarah Palin è diventata invece l'eroina numero uno, diciamo, della destra politica americana, e malgrado nella sua campagna elettorale di 2 anni fa si fosse attirata insomma un po' l'ironia internazionale, sbagliando addirittura il posto degli stati sulla cartina geografica, non sapendo molte cose per quanto riguarda l'economia o la politica internazionale, beh, malgrado questo, insomma, oggi Sarah Palin è diventato un simbolo di quello che è il movimento più importante cresciuto negli ultimi mesi, il cosiddetto movimento del Tea Party, che si rifà alla rivolta di Boston alla fine del 700 contro le tasse sul tè imposte dalla corona britannica, che segnò l'avvio di quella che è considerata la rivoluzione americana, o se si preferisce la guerra di indipendenza degli americani appunto dalla Gran Bretagna. Diciamo che appunto il successo di Sarah Palin dice dove stanno andando le cose. Allora, rispetto a queste elezioni, le elezioni appunto di mezzo termine che si svolgeranno il 2 novembre, Quindi la prossima settimana che cosa sta accadendo? Sta accadendo che nel corso degli ultimi mesi questo movimento del Tea Party, che è cresciuto per chiarirci all'esterno del Partito Repubblicano, ma che ha poi di volta in volta condizionato le elezioni primarie, cioè quelle che scelgono i candidati all'interno del Partito Repubblicano, e ha cominciato ad attirare anche l'attenzione di una parte dell'establishment, appunto della destra politica tradizionale americana, ha mietuto una serie di successi, nel senso che in molti stati i candidati del Tea Party, forti di un appoggio popolare che è cresciuto prima su internet e poi con manifestazioni, diremmo, di piazza, quindi diciamo con un attivismo più simile a quello che conosciamo anche in Europa, insomma nelle forme politiche della mobilitazione, con iniziative locali, serate, concerti e quant'altro, hanno conquistato il posto, diciamo, e la possibilità di candidarsi e di sfidare, essere loro a sfidare i candidati democratici per le prossime appunto elezioni di midterm, in particolare in una serie di stati che sono il Delaware, l'Alaska, il Kentucky, il Nevada, la Florida, il Colorado, il Wisconsin e qualcun altro. I candidati del Tea Party sono in condizioni attualmente addirittura di battere gli avversari e di quindi di entrare alla Camera o al Senato. C'è da dire che secondo gli analisti politici attualmente, in una situazione di quasi parità dal punto di vista del voto tra democratici e repubblicani, ma con la possibilità che diciamo la bilancia penda tutta a favore della destra, e arriveremo adesso a capire perché, insomma, c'è tutto questo malcontento negli Stati Uniti, i candidati del Tea Party potrebbero rappresentare circa un quarto degli eletti repubblicani, con l'ipotesi che formino poi all'interno del Congresso anche un proprio gruppo parlamentare di appoggio in qualche modo ai repubblicani, ma che tiri, diciamo, per la giacchetta i repubblicani su posizioni più estreme. Su che cosa si è caratterizzato fin qui questo movimento del Tea Party, su che cosa queste figure politiche spesso totalmente nuove, ci sono che ne so, l'ex reduce dalla guerra del Golfo, la ex hostess, l'insegnante di scuole religiose, cioè diciamo un ceto politico nuovo di persone che esplicitamente dicono: noi non abbiamo mai fatto politica e oggi ci mettiamo in gioco per rappresentare quelli come noi, cioè quelli che sono stati fin qui lontani dai grandi partiti, destra compresa. Beh, la base, diciamo, della loro campagna elettorale non è esattamente quella del radicalismo di destra tradizionale, così come ce lo possiamo aspettare in Europa, nel senso che fondamentalmente al centro di questa campagna c'è il rifiuto dei poteri dello Stato federale, quindi di quello che viene definito il big government, cioè l'idea che lo Stato non debba avere tutti questi poteri, non debba fare tutto ciò che fa oggi per i cittadini, anche se lo fa nell'interesse dei cittadini. C'è il rifiuto delle riforme volute da Obama, a partire dalla riforma sanitaria, cioè dall'idea che ci sia un diritto ad avere una sanità pubblica. Si preferisce pensare che ciascuno, un po' in onore allo spirito americano, se la debba cavare da sé. E poi ovviamente il tema delle tasse, cioè il fatto che in qualche modo le tasse non debbano avere un elemento di proporzionalità rispetto al reddito, ma ci sia una tassa fissa per tutti, e quindi chi più è riuscito a far fortuna se la gode senza doverla in qualche modo condividere con gli altri attraverso la tassazione. Accanto a questi temi forti, che sono appunto più di politica economica, sociale, che potremmo definire, ci sono poi una serie di movimenti che invece pescano più esplicitamente nel radicalismo e nelle logiche complottiste, e che stanno intorno, fanno da corollario all'agitarsi, hanno fatto nell'ultimo anno da corollario alle azioni del Tea Party. Ci sono i movimenti che considerano Barack Obama uno straniero, vuoi perché musulmano, vuoi perché nato, essendo figlio di un immigrato dal Kenya, perché in realtà sarebbe nato all'estero e quindi non avrebbe diritto a candidarsi alla carica di presidente, così come stabilito dalla Costituzione americana. C'è un sottofondo razziale, diciamo il 95% degli aderenti al Tea Party, delle persone che partecipano alle manifestazioni di questa parte della destra americana sono bianchi, e diciamo il non detto è appunto che la loro polemica nei confronti della Casa Bianca di Washington sia soprattutto centrata sul fatto che il presidente attualmente è un afroamericano, e via dicendo. Cioè, ci sono poi una serie di appunto elementi, non so, la questione dell'uso assolutamente libero delle armi, cioè di temi tradizionali dell'estremismo di destra, che sono confluiti in questa nuovo capitolo, diciamo, della vicenda dei conservatori. Ovviamente non sarà fino all'esito delle elezioni di midterm dato sapere quanto questa politica sta davvero influendo sugli equilibri complessivi. Allora, qui possiamo, diciamo, fissare alcuni elementi. Allora, il primo elemento è che il Partito Repubblicano, visti questi successi del Tea Party localmente e il fatto che alcuni di questi candidati hanno vinto le primarie, si sta chiedendo se non gli convenga in qualche modo sposare questa politica più estremista, immaginando anche una candidatura di Sarah Palin. Ci sono però dei problemi. Il primo problema è che chiaramente questa messa in discussione da parte del Tea Party delle elite politiche tradizionali implica anche una messa in discussione degli stessi leader repubblicani oggi in sella, e quindi, come dire, c'è una difficoltà per questi leader a farsi da parte, no? Per lasciare che ne emergano altri, e c'è anche il rischio che, siccome negli Stati Uniti, diciamo, per misurare le tendenze elettorali presso i seggi, diciamo, ci si può iscrivere da parte dei cittadini in tre gruppi di elettori, cioè i repubblicani, i democratici e gli indipendenti. In molti stati questi elettori indipendenti rappresentano se non la maggioranza, ma una buona fetta dell'elettorato. Si tratta ovviamente di quelli che noi in Europa potremmo definire degli elettori centristi, quindi poco propensi a spostarsi da una parte o dall'altra su posizioni radicali. L'estremismo, il radicalismo del Tea Party potrebbe incoraggiare lo spostamento verso i democratici di questi elettori, il che farebbe sì, come dire, avrebbe un risultato paradossale, che magari i candidati del Tea Party andrebbero bene, ma non sufficientemente bene da battere i democratici, e che invece l'elettorato spaventato dal fatto che i repubblicani si facciano rappresentare dal Tea Party, quindi dagli estremisti, si spostino dall'altra parte e quindi votino per i candidati appoggiati dal presidente Obama. Questo è, diciamo, un elemento. L'altro elemento in cui invece che è stato denunciato nelle ultime settimane di campagna elettorale anche dallo stesso presidente, e che contraddice, insomma, un po' questi primi dubbi dell'elite repubblicana, è il fatto che importanti finanziamenti, in parte derivanti per esempio da quel circuito di compagnie petrolifere che avevano già dato il proprio consenso, il proprio sostegno alla lunga, al decennio di George Bush alla Casa Bianca, starebbero sostenendo in questi mesi i candidati più estremisti del Partito Repubblicano, cioè i candidati appunto del Tea Party, che spesso, pur essendo degli absolute beginners della politica, delle persone che non erano mai scese in campo, possono usufruire di fondi veramente molto molto cospicui, e quindi, per dire, uno spostamento di interessi anche concreti. Io, proprio su quest'ultimo elemento che tu andavi iniziando, avrei anche una domanda più specifica, che in qualche modo è anche un po' una curiosità, però che dà anche la misura un po' di quanto sia importante approfondire certe cose anche in relazione di quanto accade da noi. Qualche giorno fa una delle firme un po' d'oro del giornalismo italiano, Rampini se non sbaglio, raccontava su un noto quotidiano come il modello appunto del Tea Party fosse studiato molto da vicino anche dalla nostra destra, in particolare dal nostro Premier, poiché tutti gli elementi di quella ricetta che tu hai un po' elencato adesso ben si adattavano alla realtà italiana, in particolare poi il ruolo di passionaria della destra sarebbe stato quello di Daniela Santanchè, e poi nello specifico invece si vedeva come invece il ruolo di Mediaset fosse quello in America della Fox. E quello che ti chiedo è un po', allora, qual è questo ruolo della Fox, non tanto appunto per trovare il gioco delle somiglianze, quanto per capire poi effettivamente qual è anche il progetto che c'è allo studio in Italia, appunto qual è questo ruolo della Fox? Tu hai elementi per raccontarlo? Sì, diciamo che con questo possiamo anche chiudere gli elementi di incertezza rispetto al risultato del 2 novembre, nel senso che tutto quello che stiamo dicendo poi non tiene conto di un elemento che, al di là della misura sul campo, cioè di quanta gente partecipa ai comizi, di manifestazioni, di serate organizzate dalla destra e dalla sinistra, conta moltissimo negli Stati Uniti, ma appunto anche in Europa, l'influsso dei media. Da questo punto di vista, da un decennio a questa parte, Fox News, che è di proprietà di Murdoch, ha diciamo trasformato ed è diventata la prima televisione, superando anche la CNN, la prima televisione di All News, ha imposto un nuovo stile, ed è uno stile in cui peraltro è vedibile anche in Italia, insomma, attraverso il satellite, quindi ciascuno se ne può rendere direttamente conto, uno stile in cui le notizie sono assolutamente filtrate dall'opinione, cioè il posizionamento della testata rispetto allo scacchiere politico è talmente evidente da avere il sopravvento anche sulle notizie, che non sono date, diciamo, banalmente come fatti appunto accaduti, ma sono sempre interpretati e affidati a una lettura ideologica molto forte. Fox News è uno degli assi nella manica del Tea Party, nel senso che non solo ha contrattualizzato Sarah Palin e ha contrattualizzato altri esponenti comunque alla destra, diciamo, del Partito Repubblicano, ma soffia su quel tipo di inquietudine, e su questo forse si può anche concludere, insomma, l'annuncio rispetto al 2 novembre, poi vedremo appunto che cosa accadrà, cioè l'idea che una parte degli americani di ceto medio, di mondo del lavoro bianco, prevalentemente bianco, provi ormai una sorta di irritazione nei confronti delle elite, cioè consideri tutto ciò che accade a Washington, e in questo caso tutto ciò che accade intorno alla maggioranza democratica incarnata da Obama, come qualcosa di distante, come qualcosa che in qualche modo non abbia a che fare con le proprie vite, che quando ha a che fare con le proprie vite magari è per chiedere maggiori tassazioni, maggiori sacrifici, non offrire le risposte alla crisi economica, alla disoccupazione, eccetera eccetera. Paradossalmente una parte dell'establishment, perché non si può non considerare Murdoch e non considerare Fox News come una parte, diciamo, dei poteri forti o dei poteri reali degli Stati Uniti, soffia, e in questo è il paradosso e il paragone, diciamo, con la vicenda italiana e europea è abbastanza evidente, soffia invece su questo vento populista, cioè dice in qualche modo alle persone: ribellatevi all'establishment, malgrado essi stessi rappresentino l'establishment. E questa forse è la vera sfida che è stata posta dal Tea Party alla prima amministrazione guidata da un afroamericano, ed è su questa sfida che si dovrà misurare poi appunto la capacità di Obama di tenere invece dall'altra parte che cosa? Quell'elettorato che ha tutto da guadagnare invece sul fatto che, diciamo, la Casa Bianca e l'establishment siano vicini alla gente, quindi l'elettorato afroamericano, i latinos e quella parte dei giovani che anche Bianchi l'aveva votato a maggioranza 2 anni fa. Se così non fosse, se questo senso di distanza dalla politica, però appunto non per una partecipazione diversa ma per un rifiuto di tutto ciò che è appunto pubblico e establishment, venisse premiato, probabilmente sarebbe davvero l'inizio della crisi dell'amministrazione Obama e una fotografia molto preoccupante per lo sviluppo di una destra nuova anche per gli Stati Uniti, dove comunque una tradizione di destra dopo Reagan e Bush è comunque molto forte, insomma. Va bene, noi questa cosa l'andremo a capire la settimana prossima e sicuramente ne torneremo a parlare da questi microfoni tra 2 martedì, insomma. Io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere oppure ci possiamo salutare, visto che noto che sono le 13:04. Rispetterei questa puntualità appunto assolutamente anglosassone, ti ringraziamo e ci sentiamo la prossima settimana. Va bene, un abbraccio, ciao, ciao. Allora, sulle parole del nostro redattore telefonico e sulle note degli Even in Blackouts andiamo a concludere così questa puntata alle 13:05. Vi invitiamo ovviamente a rimanere sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, visto che tra qualche istante andrà ad iniziare il GR della radio. L'appuntamento con questa trasmissione invece è come sempre per martedì prossimo alle 13:15 circa e con il blog maldestra.noblog.org. Un saluto a tutte e a tutti.